Italia in controluce. 3 anni e mezzo sono passati dal terremoto dell'Aquila, da quel sisma del 6 aprile 2009, le cui ferite sono ancora tutte lì, nella vita degli aquilani e nelle pietre della città. La zona rossa è ancora chiusa, il centro storico inavvicinabile, con tutto quello che questo comporta per chi ci viveva, ci andava a scuola, ci lavorava. Ma non tutto è immobile, per fortuna. Oggi siamo qua a raccontarvi una bella notizia. Ce la dice in diretta, è qui con noi in studio, Laura Bettini. Buongiorno, sì Piera, buongiorno agli ascoltatori. Domenica si inaugurerà infatti alla presenza del Presidente della Repubblica Napolitano un auditorium che è stato progettato da Renzo Piano e realizzato con fondi della provincia autonoma di Trento, sono svariati milioni di euro, e donato alla città, quindi non c'è stato alcun compenso per Renzo Piano, non ci sarà alcun compenso per Claudio Abbado, che domenica dirigerà il concerto con il quale verrà inaugurato questo auditorium. Claudio Abbado che insistette con Piano proprio perché fosse realizzata questa sala per la città dell'Aquila, alla quale lui è molto legato. Sentiamo Renzo Piano cosa ci ha raccontato. È un piccolo auditorium che è temporaneo ed è costruito per consentire di far musica. L'Aquila è una città musicale, con tante associazioni musicali, con tanti musicisti, con tanto amore per la musica. La sala del castello è stata lesionata dal sisma e quindi è inagibile, una sala da 250 posti. C'è uno strumento musicale piuttosto sofisticato, è fatto con il famoso abete rosso della Val di Fiemme, che è il legno usato per fare tutti gli strumenti musicali, da Stradivari in poi. Insomma, Claudio Abbado ci va spesso a suonare e mi chiese l'ultima volta che andò all'Aquila dopo il terremoto, mi chiese di lavorare all'idea di fare un piccolo auditorium temporaneo, naturalmente, da collocare lì vicino, nel parco del castello, e che possa, mantenere in vita questa grande tradizione musicale. Insomma, la realizzazione di questo auditorium temporaneo, smontabile al punto da essere definito effimero dal suo stesso progettista, comunque, come sempre capita in queste occasioni, suscitato molte discussioni in città, soprattutto per la sua posizione, cioè, come diceva Piano, a due passi dal castello della fortezza cinquecentesca, in quello che era un parco alberato, che in parte è stato ovviamente abbattuto per realizzare questo auditorium, e poi per la scaletta delle priorità. La città, con quella zona rossa che ancora ha, aveva davvero bisogno di un nuovo auditorium, visto che almeno uno era sopravvissuto in ogni caso al terremoto. Questa è una domanda che si sono posti in tanti e se ne parla in questi giorni anche alla seconda edizione della Fiera della Editoria, che si sta svolgendo proprio lì vicino alla zona rossa e che è stata organizzata dall'associazione che si chiama L'Aquila Volta la Pagina, di cui Valeria Valeri è la presidente. A lei abbiamo chiesto un giudizio su questo auditorium. Perché nel momento in cui, gettando le fondamenta, quindi creando una piattaforma tra l'altro antisismica con tutti i crismi della costruzione antisismica, sopra non è stato elevato qualcosa di più duraturo? Perché qui non rimane la firma di Renzo Piano? Dappertutto il moderno convive con l'antichità. Ma come cittadina e non tanto come presidente di un'associazione culturale, le voglio chiedere, non sarebbe stato meglio forse pensare prima al centro storico e alla sua ristrutturazione e poi a un nuovo moderno auditorium? In realtà è nel centro storico, quindi adesso da cittadina la voglio vedere come del centro storico, quindi comunque è un intervento pensato e contestualizzato per fargli vivere il centro storico. Certamente, siccome di fronte avrà quella che nel progetto sarà la piazza, almeno così ci è stato detto, dei prossimi 10 anni, mi chiedo anche, visto che noi una piazza ce l'abbiamo e grazie a Dio il terremoto non l'ha distrutta fisicamente come spazio, perché non pensare anche a quei palazzi? Ovviamente parlo solo da cittadina che non conosce magari il dettaglio tecnico piuttosto che l'intreccio burocratico o la trafila burocratica, però mi auguro insomma che al di fuori di questi interventi esteriori, ma soprattutto aggiuntivi al nostro centro, siano anche portati avanti con una certa sollecitudine anche gli interventi volti a salvare dal degrado quello che ha danneggiato il terremoto. Insomma, è molto garbata Valeria Valeri, ma è anche precisa nelle sue domande. Domande che abbiamo a questo punto rivolto a Renzo Piano. Perché deve essere temporanea questa realizzazione? Perché se no qualcuno potrebbe pensare che prenda il posto del castello e quindi magari il restauro del castello si allontana o magari si svuota di funzioni. E questa è una preoccupazione che condivido pienamente. Cioè, non bisogna fare delle cose all'Aquila che rubino vita ai monumenti che l'hanno sempre avuta e che devono tornare a vivere. È chiaro che è un edificio sofisticato, non è il caso di buttarlo via, ma ci sono diverse ipotesi di trasferimento quando la sala del castello sarà finita e a questo punto si vedrà, ma comunque questo edificio è donato dalla provincia di Trento e resta di proprietà dell'Aquila, sappiamo già come fare, cioè è di legno, è una struttura temporanea che naturalmente non è fatta che caschi a pezzi, è una struttura che ha una vita lunga, ma si può smontare, si può trasportare. Come ha visto lei in questi mesi in cui ha lavorato in questa città i progetti per la ricostruzione, il recupero di quello che c'era, dell'esistente? Beh, questo è il problema grosso, che invece che si sono costruite New Town, si sono costruite delle sotto periferie. Adesso il mondo intero lavora per eliminare le periferie, cioè per costruire in questo senso di urbanità. L'Aquila c'è, la città storica straordinaria, e invece purtroppo sono state create edifici che sono un pochettino come dei deserti effettivi, insomma sono di periferie. Si può riparare tutto, ma certamente è andato perso molto tempo e anche molto denaro, diciamoci la verità. Ma a suo parere mancano i progetti o i soldi per il recupero di quello che no, è stato? No, il recupero adesso, i soldi arriveranno, i progetti ci saranno anche, bisognerà piuttosto procedere per il restauro degli edifici storici dell'Aquila e con delle tecniche che siano compatibili. Ecco. Io le chiamo restauri tolleranti, perché devono avere questa visione, cioè che non si può mandare via tutti. Se si manda via tutti e si fa piazza pulita, allora si uccide un'altra volta l'Aquila. È stato testimone di quel violento terremoto, è stato testimone in questi 3 anni e mezzo della ricostruzione, anzi in parte potremmo dire della mancata ricostruzione. Parliamo del sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente. Buongiorno Cialente. Buongiorno a voi. Buongiorno, le ha sentite le parole di Renzo Piano? Spero almeno che le abbia, sia riuscita a sentirle. Non sono parole molto, insomma, sono parole piuttosto dure. Piano ha parlato di spreco di soldi e di tempo. Cosa non sta funzionando secondo lei all'Aquila? Davvero si sono persi tempo e soldi? Noi abbiamo perso 2 anni per la ricostruzione e questi 2 anni proprio gettati al vento per una burocrazia allucinante che è stata creata da una scelta, a mio avviso, scellerata del precedente governo Berlusconi, che ha ritenuto che la ricostruzione dovesse essere fatta da un commissario molto accentratore, togliendo qualsiasi ruolo agli enti locali. Il nuovo governo, dopo un esame della situazione, anche in seguito a mie pesantissime denunce, un colloquio avuto da me nel mese di gennaio con Monti, ha studiato la situazione, ha licenziato il commissario e adesso in questi giorni dovrebbe finalmente passare ai comuni, dovrebbero passare le funzioni della ricostruzione. Quindi questo consentirà di essere più veloci? Guardi, io sono pronto ad assumermi le responsabilità, non ho paura a firmare atti, non ho paura ad accelerare le procedure, ho già predisposto tutto e devo recuperare questi 2 anni, perché a parte i soldi che si sono spesi, le New Town e così via, noi spendiamo ogni mese migliaia e migliaia di euro. Io credo che posso parlare di 3-4 milioni di euro che vengono buttati ogni mese solo in seguito ai ritardi. Lei pensi problemi burocratici sugli espropri, questo lo voglio denunciare. Noi buttiamo 700.000 euro al mese di occupazioni temporanee di terreni perché non si sta procedendo agli espropri, sono 8 milioni e 400.000 euro che stiamo buttando dal 2009, ogni anno, questo per farle comprendere. Certo, certo. Piano fa anche... La mia rabbia è enorme, la mia battaglia e non solo la sua, immagino di tutti gli aquilani. L'altra accusa che vi ha rivolto, che rivolge un po' all'Aquila intera, Piano, è quello che il mondo intero ha lavorato per l'eliminazione delle periferie e lì invece le si sono create. Anche questo sta creando dei disagi alla gente. Ma senta, questa scelta, il governo fece una scelta di realizzare il famoso progetto casa, le New Town, che non sono state sufficienti come numero di case, tant'è vero che io poi dovetti fare una battaglia fortissima per ottenere almeno i cosiddetti mappe, i moduli prefabbricati in legno, che realizzati a ridosso delle frazioni, la città dell'Aquila è una città policentrica con oltre 64 centri abitati, mi ha permesso almeno di mantenere le comunità integre, vale a dire non ho disperso, atomizzato in una diaspora i cittadini come è successo invece per il centro storico. È chiaro che adesso, io in questo momento mentre lei mi telefonava, sto stendendo l'ultima parte del piano strategico della città, in cui uno degli aspetti fondamentali è come recuperare queste periferie nuove delle quali parlava Renzo Piano poc'anzi, che in questo momento vanno ricollegate a un'idea di città, quindi vuol dire un punto di vista certo trasportistico. Sindaco, le chiedo un'ultima cosa perché purtroppo il tempo ci sta per scadere, ma parlando oggi con architetti, aquilani e così via, mi facevano notare, esiste il master plan, c'è una volta che lei avrà in mano gli strumenti, è già pronto? Noi abbiamo in questo momento questi strumenti, abbiamo realizzato il piano di ricostruzione della città, c'è già un piano di ricostruzione che è centro storico, centri storici di tutte le nostre frazioni e in più anche la sistemazione delle periferie. Abbiamo approvato il piano urbano della mobilità. Sindaco, lei è pronto, aspetta solo... Il lunedì presento alla discussione della città la proposta di piano strategico di terza generazione sulle linee di fondo dello sviluppo con gli interventi strategici sia della ricostruzione sia dello sviluppo economico e dei recuperi, e l'ultima cosa che mi rimarrà da fare alla fine di questo percorso, lei capisce che sarà l'adeguamento del piano regolatore, che però abbiamo già fissato nel programma di mandato. Grazie al sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, grazie a Laura Bettini per aver realizzato questo approfondimento. Italia in controluce torna la prossima settimana, scuola in controluce lunedì alle 13:30.